Le 14 in punto. Giovedì 28 luglio del 2011, 87.900, la modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa, questa è Visionari, il cinema, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Subito i nostri ospiti, per tutte le informazioni sulla scaletta potete consultare il sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Con noi Luca Guadagnino, regista del documentario Inconscio Italiano che sarà al Locarno Film Festival il 5 agosto, ben ritrovato su queste frequenze intanto. Salve, salve. Come stai? Bene, benissimo. Allora, fortuna l'estate è mite. Estate mite. Senti, la prima domanda che mi veniva in mente è come mai in questo passaggio dal film di finzione al documentario? Ma io ho fatto parecchi documentari nella mia carriera, se posso usare questo parolone. E questo quindi non è la prima volta che succede. Succede. Penso che sia importante fare i documentari perché permette di allenare lo sguardo sulla realtà a chi poi fa la rappresentazione della fiction. Allora Luca, intanto io partirei dal documentario d'impatto suggestivo, questo Inconscio Italiano, come mai? Beh, le cose nascono sempre da occasioni, diciamo, inaspettate. Una di queste occasioni è stata quella di parlare con Luciano Sovena, che dirige l'Istituto Luce, e di trovare una complicità con lui sulla possibilità di mettere le mani, come potrei dire, sui loro preziosissimi materiali di archivio che parlavano della guerra di Etiopia del 36, del 35-36, dell'aggressione fascista in Etiopia. Sì. Partendo da questo materiale, avendone visionato praticamente l'intero corpo, sono cominciate a nascere delle riflessioni che mi hanno portato a vedere in quelle immagini di tanti anni fa, quasi un secolo fa, dei fuochi che ritornavano sul presente, e quindi abbiamo cominciato a avvicinare dei grandi intellettuali come Angelo Del Boca, che è forse il più importante storico dell'Africa orientale che l'Italia abbia mai conosciuto, o la filosofa e politologa Ida Dominianni, e con loro appunto ci siamo interrogati su cosa possa essere cosa possa essere fatta la fibra del rimosso italiano. Ho un rimosso di una realtà pesante, fatta di morti e persecuzioni in Africa, ma non solo, qui in particolare chiaramente stiamo parlando dell'episodio africano. Ecco, raccontaci un po' quella realtà. Beh, diciamo che la storiografia ha saputo spazzar via alla retorica degli italiani brava gente già da parecchi decenni, quindi diciamo che il nostro approccio non è esattamente quello, fatto salvo che ripeterlo non è mai troppo, che in realtà l'italiano brava gente non è esattamente nei fatti della storia. Quello che noi abbiamo provato a fare è cercare di capire, di riflettere sul, da un lato, il potere di quelle immagini straordinarie che sospetto furono fatte anche da grandi registi, perché ci sono proprio delle immagini che hanno una potenza di puro cinema, sì, e contemporaneamente vedere, demistificare la retorica propagandista di quelle immagini, cercando di capire quali sono gli atti mancati che quelle immagini cercano di illustrare inconsciamente, inconsapevolmente. E riflettere anche sul concetto di esclusione, di alterità o di trasformazione di chi è diverso da noi in un altro inferiore, l'inferiorizzazione. E nelle parole degli intellettuali che abbiamo raccolto, come appunto Del Boca, Dominianni, ma anche Burgio e la professoressa Lucia Ceci, la professoressa Michela Fusaschi e il professor Chambers della Orientale di Napoli, siamo riusciti forse a trovare dei percorsi che ci portano a vedere come minimo comune denominatore della nostra identità questa tensione a una razzializzazione dell'altro che è diverso da noi. Ecco, l'avventura, chiamiamola così, italiana in Africa, aveva il disastro italiano in Africa. Aveva tutti... Una delle cose che si sentono nel film, sì, e che io sono felice di poter mostrare a un pubblico, e nelle parole di Angelo Del Boca, è che il generale Graziani, che era il, diciamo, il comandante in campo e il braccio destro di Mussolini sul territorio, si macchiò tra le altre atrocità della sterminio quasi totale della chiesa, dell'intera chiesa etiope, che era tra l'altro una confessione cristiana. Insomma. Aveva tutti i connotati della colonizzazione e anche quelli del razzismo proprio del regime, questa pagina di storia, no? Beh, dall'altro lato c'era anche una tensione un po', diciamo, al sogno ad occhi aperti di chi pensava di lasciare la madre patria e di trovare una virginità in questa seconda madre patria che si pensava potesse essere l'Etiopia. C'è da dire che il tentativo di colonizzazione dell'Etiopia arriva in estremo ritardo rispetto alle colonizzazioni delle grandi potenze come l'Olanda, la Gran Bretagna, che avevano colonizzato a partire dalla fine del Settecento, più o meno anche prima, ovviamente anche prima. Diciamo che quindi c'era una sorta di goffaggine. Ci sono anche, ovviamente, la mia famiglia, per esempio, è una famiglia che ha vissuto 5-6 anni in Etiopia tra il 71 e il 77, dopo, fino a quando poi l'imperatore fu detronizzato per sempre e venne al potere una dittatura comunista di impronta albanese, quella di Mengistu. Per cui diciamo che c'era una sorta di sogno di un'Africa benigna che potesse farti ricominciare negli italiani che andavano, però una cosa sono, diciamo, i sogni di chi andava, di coloro che erano spediti lì per colonizzare, una cosa è la responsabilità politica e storica di chi ha deciso una cosa del genere, come appunto Mussolini. Oh, che strascichi ha avuto quella pagina di storia sia in Italia che in Africa? Beh, la retorica continua, purtroppo continuano anche i morti nei fronti di guerra, dove noi siamo in missione di pace, in realtà siamo in guerra. Mi sembra che non ci sia una grande discontinuità, mi sembra anche che chi governa in questo momento e da molti anni sia l'erede diretto di quella retorica fascista, il nostro ministro della difesa Ignazio La Russa, e il suo passato è quello di un rappresentante molto anche, diciamo, vivace di un certo tipo di ideologia autoritaria. E in Africa? Beh, in Africa, come dice Ian Chambers, è molto interessante vedere il processo di infiltrazione, fantasmizzazione del colonizzato nel colonizzante. Questo lo si vede tranquillamente in tutte le grandi democrazie del Nord Europa, come la Gran Bretagna, dove ormai non esiste quasi più un'identità separata, impermeabile, britannica rispetto ai suoi colonizzati. Infatti basta per banalmente guardare le cucine che si mangiano in quei posti, dove ormai la Gran Bretagna è meticciata totalmente dei sapori dell'India, per esempio. In Italia, proprio perché si è creduto di poter dire che noi eravamo brava gente, si è resi molto impermeabili, per cui sarà molto interessante vedere questo processo di impossessamento, no? Possessione quasi sovrannaturale, che a un certo punto arriverà come impatto di quest'Africa in Italia. Certo è che si fanno grandi mosse per impedirlo il più possibile. Il fatto che la Corte Costituzionale abbia appunto definito incostituzionale che non ci si possa sposare sul suolo italiano essendo privi di permesso di soggiorno è una buona cosa, diciamo. Pochi giorni fa al Teatro Civile Festival a Monte Sant'Angelo ho visto uno spettacolo che parlava dei contadini del nord Italia che andarono in Libia come colonia a coltivare. Ecco, una delle realtà gli accordi e poi i risarcimenti tra Italia e Libia non solo avvennero sulla pelle poi nel tempo sono continuati ad avvenire sulla pelle dei libici, ma anche degli stessi coloni italiani, che erano per lo più povera gente, contadini arrivati dall'Italia. Certo, certo. certo, cioè, diciamo, l'inferiorizzazione è anche di natura non solo di etnica, ma anche di natura sociale, ricchi e poveri, e anche di natura sessuale, uomini e donne, sì, oppure maschio, bianco, eterosessuale e tutti gli altri. Certo, certo. Senti Luca, che destino avrà il tuo documentario dopo la presentazione a Locarno? Intanto lo presentiamo a Locarno e lo presenteremo anche al Festival di Torino a novembre, e vediamo che succede. Bene, un'altra cosa in chiusura è che la tua avventura riguarda anche la produzione, se non sbaglio. Stiamo cominciando le riprese tra pochissimo, l'8 di agosto, del secondo film di Edoardo Gabriellini, I padroni di casa, che è prodotto appunto da First Sun, che è la società di cui io faccio parte, e anche dalla Relief, che è la società di Valerio Mastandrea, e da Francesco Mezziderill, che è un altro produttore, con questo film con Valerio Mastandrea, Elio Germano, Valeria Bruni Tedeschi, e il ritorno al cinema dopo tantissimo tempo di Gianni Morandi. Benissimo, allora in bocca al lupo per tutto, ci risentiremo spero in autunno per le vicende di questo Inconscio Italiano. Assolutamente, crepi il lupo e grazie mille. Un abbraccio, ciao Luca. Un abbraccio. Luca Guadagnino, regista del documentario Inconscio Italiano. Davide De Michelis, regista del documentario Radici, pronto, ci sei? Eccomi, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Ben trovato. Allora, grazie, le voci dell'inchiesta, questo era il festival a cui hai partecipato con il tuo lavoro, se non sbaglio. Esattamente, a Pordenone. A Pordenone. Allora, Radici, spiegaci un po', a partire dal titolo, il senso poi e l'argomento della tua opera. Radici racconta l'altra faccia delle migrazioni, cioè noi abbiamo ormai oggi in Italia 4 milioni e mezzo di immigrati, cioè di persone che vengono da altri paesi e che vivono regolarmente nel nostro, più circa 500.000 di immigrati irregolari, cioè 5 milioni di persone, il 7% della nostra popolazione non sono nati in Italia. In realtà sappiamo pochissimo di questa gente. Allora Radici che cosa fa? Usa il meccanismo di farci accompagnare a casa sua da uno di questi immigrati. Siamo andati in 4 paesi, sì. Siamo andati in Bolivia, in Senegal, in Bosnia e in Marocco, e in ognuno di questi paesi ci ha accompagnato un immigrato che vive in Italia e che proviene da questi paesi, quindi una bosniaca che vive a Roma ci ha portato in Bosnia, un marocchino che vive a Bologna ci ha portato in Marocco, e così un senegalese che vive a Torino ci ha portato in Senegal, una boliviana che vive a Bergamo ci ha portato in Bolivia, e ci hanno raccontato le loro radici. Io partirei anche da un fatto, oltre al, poi ci torneremo sopra chiaramente alle radici, ma il loro rapporto con lo Stato nel quale sono arrivati e verso le altre comunità, visto che comunque stiamo parlando di una cifra enorme, 4 milioni di persone. Assolutamente, sì, il loro rapporto, almeno parlo di questi 4 casi, di queste 4 persone, i rapporti che hanno con i loro paesi, con la loro gente, con la loro famiglia, con le loro origini, mediamente sono molto stretti, molto forti. Ad esempio, parliamo di uno dei 4, di una delle 4 puntate, quella dedicata alla Bolivia. Sì. Abbiamo girato a Ferragosto dell'anno scorso, e ci sarà anche a Ferragosto di quest'anno per chi vuole andare, a Bergamo, la festa più importante dell'anno per i boliviani, che è la festa di Maria Assunta in Cielo, una festa che di per sé celebriamo anche noi, ma loro la celebrano alla boliviana, cioè fanno una processione per le vie di Bergamo, che per noi sembra una sfilata di carnevale, ma per loro è una processione religiosa, perché le loro processioni religiose sono festose, hanno costumi, musiche, camion con cassa, palla, eccetera eccetera. A Bergamo vivono 15.000 boliviani. Dei 110.000 abitanti di Bergamo, 15.000 sono boliviani. Ebbene, a Ferragosto, Bergamo, come un po' tutte le città d'Italia, è vuota perché la gente è in vacanza, e a Ferragosto in realtà Bergamo diventa Bolivia. E questo dice proprio del rapporto stretto che queste persone hanno con la loro cultura, con il loro paese, con le loro radici, che celebrano anche qui da noi in questa maniera. Volevo chiederti, da cosa dipende la localizzazione di comunità particolari, ad esempio la boliviana ha una così forte presenza a Bergamo, ecco, questi che meccanismi hanno questi viaggi? Ma io ho scelto queste quattro persone, dunque abbiamo prima scelto i paesi per andare a individuare situazioni significative, diciamo, per l'immigrazione in Italia. E adesso, detto brevemente, la storia della boliviana l'abbiamo scelta per questo, perché era curioso che in una città come Bergamo, profondo nord, peraltro città dove è nata la Lega Nord, ci fosse una così grande presenza di una sola comunità, cioè di quella dei boliviani. Sì. Ma i senegalesi in Italia sono molti, quindi la scelta è andata sul Senegal per questo. Una delle prime comunità di immigrati, anche delle più storiche nel nostro paese, è quella dei marocchini. La Bosnia l'abbiamo scelta perché è un paese alle porte dell'Italia, è qui vicino, dall'altra parte dell'Adriatico, però è un paese di cui si è parlato moltissimo ai tempi della guerra, 91-94, e poi è scomparso. E allora abbiamo pensato anche di usare il pretesto di questo programma per ritornare su un paese così vicino, ma paradossalmente così lontano. Oh, a proposito di radici, ogni comunità ha forti legami con la propria terra d'origine, ma comunque nel nuovo territorio nel quale si insedia dà vita a una sorta di meticciato che non è una cosa a sé stante, sia rispetto alla terra che li accoglie, sia rispetto alla terra da cui vengo, o sbaglio? È vero, guarda, ti faccio due esempi che c'entrano con l'Italia ma non c'entrano con il nostro territorio nazionale. Io ho scoperto che in Argentina ci sono alcuni paesi, in Argentina c'è stata una forte emigrazione dal Piemonte soprattutto. Sì. Non dimentichiamo che il nostro paese all'inizio del secolo scorso e alla fine del 1800 è stato quello che ha avuto la maggior quota di emigranti, il nostro paese è stato un paese di emigranti. Ad esempio, molti piemontesi sono andati in Argentina, ci sono dei comuni in Argentina dove si parla un dialetto piemontese che non si parla neanche più da noi. Oppure mi era capitato anni fa di stare in Belgio per alcune settimane a Bruxelles, quindi voglio dire, non è che parliamo di una cittadina di periferia, eccetera. A Bruxelles, allora come oggi, c'era una presenza di comunità di vari paesi, soprattutto per il via della comunità europea, della presenza del governo della comunità europea. Ebbene, a me era rimasto impresso, io avevo conosciuto alcuni italiani che lavoravano alla comunità europea, ma era rimasto impresso il fatto che io, quando telefonavo a casa loro, rispondevano tutti pronto. Cioè io facevo una telefonata a casa di un italiano a Bruxelles e lui non rispondeva allo, rispondeva pronto. Quindi questo dice anche noi, cioè tutte le comunità straniere, che forte identità hanno, diciamo, al loro interno. E questo ovviamente vale anche per gli stranieri che vivono nel nostro paese. Mm-mm. Per cui ad esempio Maghetti, il senegalese che ci ha portato a vedere il suo paese, che vive a Torino, quando è arrivato qua lui suona il djembe, il tamburo, no? E lui era abituato, così come si fa nel suo paese, a suonare tranquillamente fino alle 2, alle 3, alle 4 di notte, perché da loro si usa così. Lui ha dovuto imparare a non farlo, cioè ha dovuto adattarsi ovviamente alla vita in Italia, però dall'altro lato ha tenuto molti rapporti con i senegalesi, per cui sono stato molte volte con lui anche a Torino, e lui quando risponde al telefono spesso risponde in Wolof, che è la lingua del Senegal, molto più in italiano. Ecco, proprio rispetto alle quattro comunità che hai preso come riferimento, immagino che l'interazione con la cultura della terra che li ospita, cioè in questo caso l'Italia, per alcuni sia stata più problematica rispetto ad altre comunità. Sì, questo sì. Ad esempio, appunto, parlavo prima di Maghetti, il senegalese. Sì, sì. Lui mi diceva che ha avuto più difficoltà anche per via, diciamocelo, del colore della pelle, perché comunque il diverso è sempre un po' meno accettato che una persona che ha sembianze più simili alle nostre. Io sono andato a casa di Rosa, la ragazza boliviana, a Bergamo, e mi ha fatto polenta e coniglio. E io le ho detto, ma scusami, qui a Bergamo si mangia polenta e rosei. E lì mi ha detto, no, polente rosei si mangia su nelle montagne, qua si mangia polente coniglio. Cioè mi ha colpito come lei si sia anche integrata dal punto di vista della cucina, no? Oltre che ovviamente della lingua, eccetera, eccetera, di molti aspetti della cultura. La cucina è cultura, si dice che un sapore è un sapere. E così anche, lo accennavo prima, Maghetti, il senegalese, ad esempio, il rapporto che aveva col tamburo in Senegal ha dovuto modificarlo un po' stando nel nostro paese. Però certo, l'integrazione non è facile, le differenze sono, io credo, una ricchezza, ma è chiaro che possono scontrarsi anche con difficoltà di relazioni, e il colore della pelle è inutile girarci intorno, comunque è un elemento di differenza forte che spesso genera difficoltà. Senti, le varie comunità si muovono in questo paese tra problemi ma anche tra opportunità e quindi possibilità di arricchimento in senso lato, soprattutto culturale, ma non solo. Sì, assolutamente, guarda, io ho trovato uno dei motivi, diciamo, alla base dell'idea di questo programma di Radici è il fatto che noi pensiamo che gli immigrati nel nostro paese siano i poveri disperati, ahimè, che arrivano con i barconi a Lampedusa. Ora, questo è profondamente falso. Io dicevo prima le cifre, no? 4 milioni e mezzo di immigrati regolari nel nostro paese. Basti pensare che di questi 4 milioni e mezzo, 3 milioni sono arrivati negli ultimi 10 anni, quindi è un fenomeno in forte crescita. 3 milioni di immigrati regolari negli ultimi 10 anni vuol dire che negli ultimi 10 anni sono entrati nel nostro paese 300.000 immigrati in media, regolari, ogni anno. Ad oggi a Lampedusa sono arrivate all'incirca 50, forse 60.000 persone, cioè molti meno di quei 300.000, però ovviamente i giornali, le TV, certo, i media ci parlano solo di quelli. Certo. Ma noi non dobbiamo pensare che gli immigrati siano solo quelli o siano solo persone tragicamente, ahimè, in situazioni così disperate. La gran parte degli immigrati sono persone che vivono, lavorano, studiano regolarmente, né più né meno con noi, né più né meno con le nostre stesse difficoltà, diciamo, magari qualcuna di più, ma più o meno siamo lì. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sono persone che danno anche un contributo al nostro paese, sono persone che si integrano nella nostra cultura e che quindi possono arricchire la nostra o arricchire la loro proprio da questo scambio, che è uno scambio a doppio senso. Certo, certo. Davide, per saperne di più su Radici in rete si può trovare qualcosa? C'è disponibile un sito? Allora, c'è del materiale sul mio sito, che è davidedemichelis.com, ma soprattutto si possono vedere le quattro puntate di Radici andate in onda su Rai 3 sul sito del programma. È sufficiente andare sul sito di Rai 3, www.rai3.rai.it, e all'interno di quel sito c'è la segnalazione di tutti i programmi della rete e c'è la segnalazione del sito di Radici, e lì si possono vedere le quattro puntate da un'ora che abbiamo fatto, che abbiamo montato, proprio raccontando questi quattro viaggi in cui questi quattro immigrati ci portano a conoscere le loro radici. Benissimo. Davide, un abbraccio e in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie a voi. Un abbraccio anche a voi. A risentirci presto, ciao. Ciao. Davide De Michelis, regista del documentario Radici. Giuliane Biasi, co-regista del documentario Mujeje, in programmazione mercoledì prossimo 3 agosto su Rai 3. Ci sei? Sì, ciao, ciao. Ben trovata, come stai? Bene, bene, grazie. Siamo in montagna, in Trentino, quindi stiamo bene, c'è l'aria fresca, piove un po', però insomma, bello. Ecco. Allora, Mujeje, che titolo è? Cosa sta a significare? Allora, Mujeje è praticamente un villaggio in Kenya, sì. E praticamente in questo villaggio ci sono andati dei gruppi di italiani che sono praticamente, c'era gente che con la malattia mentale, familiari e operatori. Sì. E sono andati in questo villaggio praticamente a costruire una scuola professionale. Però quando mi hanno chiesto appunto a me, Sergio Damiani, che è l'altro regista, di fare un documentario su questa storia, noi siamo andati a Mujeje e abbiamo visto che è un villaggio poverissimo, insomma, quindi la cosa bella da raccontare era non tanto la costruzione della scuola, ma l'incontro praticamente dei matti italiani, tra virgolette, e dei poveri africani. Ed è stato un incontro bellissimo, molto emozionante, molto carino. Insomma, ha insegnato tante cose a loro e anche a noi, insomma. Immagino. Ecco. Mi fa venire subito in mente una miscela piuttosto curiosa questo incontro. Sì. Allora, in che termini insomma è avvenuto? Raccontacelo un po', che dinamiche, sì, ha avuto questo incontro? Sì, praticamente quando siamo arrivati appunto a Mujeje e abbiamo conosciuto Nebat, che è il nostro protagonista, ed è un papà che ha quattro bambini, che sono tutti in età scolastica, insomma lui è molto molto molto povero, tutta la famiglia lavorano in una cava di sassi, spaccano sassi tutto il giorno per 50 centesimi, quindi cioè, sono poveri anche in Africa, voglio dire. E la cosa particolare di questo papà intanto era che lui ha due mogli e una di queste mogli appunto è malata mentale anche lei. E quindi i nostri, diciamo, eroi italiani sono andati a trovare Risiki, il nome di lei è Risiki, e hanno avuto questo incontro, insomma, cercando di convincerla che la malattia mentale appunto è una malattia dalla quale si può guarire e che quindi insomma non è da penalizzare, insomma, da stigmatizzare, perché anche in Africa, voglio dire, hanno le loro difficoltà con la malattia mentale. E quindi praticamente il documentario racconta questo, insomma, no? questa storia bellissima. E i nostri italiani, la cosa interessante era che erano appunto i malati che cercavano di parlare con lei e di convincerla che c'erano delle alternative, insomma, che non bisognava nascondersi, che non bisognava avere paura degli altri. E quindi era questa in sostanza, insomma, la cosa bella di questo incontro e di questa amicizia che poi sta durando tuttora, insomma. Loro a gruppi continuano ad andare a Mujeye da tutta Italia e la scuola sta tra l'altro anche funzionando, quindi insomma voglio dire c'è anche questa cosa bellissima, insomma, no? Ecco. Senti, questo progetto come ha avuto origine? Chi lo... Allora, sì, il progetto ha avuto origine praticamente da un'associazione che si chiama Parole Ritrovate, sì, e che è sparpagliata un po' in tutta Italia, praticamente tutte le regioni hanno una sede di questa associazione dove appunto fanno parte appunto sia persone che hanno problemi di malattia mentale ma anche familiari e operatori del settore, insomma. E insieme loro hanno appunto questo concetto che facendo insieme si può cambiare il mondo. Questo faccio una piccola parentesi perché io sempre insieme a Sergio Damiani abbiamo già fatto un documentario insieme a loro qualche anno fa che si chiamava Oceano Dentro, e in quell'occasione avevamo fatto la traversata atlantica, quindi eravamo andati dall'altra parte del mondo sempre con loro. E invece questa volta appunto Mujeye è stato un progetto un po' più impegnativo, insomma, proprio dal punto di vista anche si è dovuto raccogliere tantissimi soldi per costruire la scuola e quindi è un lavoro che hanno fatto questi appunto di Parole Ritrovate con tutte le associazioni da tutta Italia, insomma, quindi c'è gente dalla Sardegna, dalla Sicilia, dal Lazio, dal Trentino, insomma, Veneto, Friuli, tutte le regioni hanno partecipato e sono andati in Africa più di 200 persone. Ecco, noi poi chiaramente abbiamo seguito nel documentario solo alcuni di questi, no, per raccontare poi la storia e l'incontro con questa famiglia, però diciamo che il progetto è un progetto molto ampio e molto interessante. Senti Iuliane, per quanto riguarda la programmazione, allora ricordiamolo, mercoledì 3 agosto su Rai 3, l'orario qual è? L'orario è verso le 23:30, quindi dopo il telegiornale, il telegiornale della sera. Sì, lo sappiamo, è un po' tardi, però vale la pena di vederlo questo documentario, perché veramente è una storia tutta italiana che si svolge fuori e quindi è bello, insomma, da vedere. Senti, anche ci sono anche riferimenti internet, hai un sito per il documentario? No, in questo momento no, ci stiamo lavorando comunque. Ok. Ci stiamo lavorando perché appunto stiamo facendo dei progetti sempre con i ragazzi di Parole Ritrovate, stiamo cercando di fare una cosa un po' carina, eccetera, però insomma ci vuole un po' di tempo, quindi non siamo riusciti ancora a organizzarci, però prossimamente lo faremo. Benissimo, allora ecco. Magari ci risentiamo prossimamente. Va bene, d'accordo, io vi ringrazio tutti, è stato bello partecipare, un abbraccio a tutti quanti. Un abbraccio, a presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Iuliane Biasi, co-regista del documentario Mujeye. È con noi Guido Albonetti della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Intanto ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, con te per parlare della scuola di cinema documentario Cesare Zavattini, che aprirà a breve, se non sbaglio. Dunque, la scuola aprirà, inizierà il suo corso annuale il 7 novembre. 7 novembre. Inizierà. Ora ci sono tutta una serie di procedure per l'iscrizione, la selezione, eccetera. Diciamo che siamo riusciti dopo 30 anni a creare, stiamo creando sì. una struttura stabile, perché in realtà l'archivio si è sempre occupato di formazione, sì. sin dalla sua fondazione. Tra l'altro Zavattini è stato uno dei suoi fondatori, oltre che primo presidente. Sì. Cioè ci siamo sempre occupati di formazione professionale, sia nell'ambito appunto dell'archivistica audiovisiva, della formazione di filmmaker, però in maniera discontinua, anche perché avevamo il problema di una sede idonea per costruire una scuola. Ora finalmente abbiamo una sede sufficientemente grande e funzionale, per cui possiamo diciamo creare questa struttura fissa. Senti, come avete pensato di strutturare questa scuola? Che progetto c'è? Dunque, la scuola per ora è finalizzata a creare la figura professionale, che è quella del filmmaker, cioè diciamo è una scuola specifica che riguarda il documentario. Sì. Cioè la formazione di persone che si vogliono occupare quasi esclusivamente del documentario. Certo. Diciamo che la programmazione didattica non è che si discosta molto da altre scuole, perché è abbastanza canonico, come c'è il corso di storia del cinema, il corso di scrittura, produzione, regia, fotografia, però è tutto quanto mirato alla produzione di documentari, cioè il documentario sotto tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione al tema del sociale e il politico, ma ci occuperemo anche del documentario d'arte, industriale, insomma il documentario sotto tutti i suoi aspetti. Oh, mi chiedevo, una parte dei partecipanti a questa scuola di cinema documentario poi entrerà in qualche modo a far parte della squadra della Fondazione dell'Archivio Audiovisivo? Cioè, no, ma la scuola è parte integrante, sì, dell'Archivio Audiovisivo. Sì, sì, sì, no, poi farà parte proprio poi, una volta finita la scuola, e continueranno a lavorare con voi, oppure insomma... Assolutamente sì, sì. Cioè, ora stiamo appunto creando la scuola. Poi tutto il corpo docente, sì. che è un corpo docente aperto, però non è una, cioè, non è una scuola diciamo con i docenti di ruolo, cioè in sì. senso canonico. Infatti abbiamo previsto all'interno del corso tutta una serie di compresenze mm-hmm. Con interventi seminariali di professionisti, sì, sì, sì, sì, sì. oltre a incontri con gli autori del cinema documentario, che fanno tutti parte dell'archivio. Per citarne qualcuno, Citto Maselli, Mimmo Calopresti, Gregoretti, Vilma Labbate, Ettore Scola. Per cui ci saranno questi momenti di incontro tra gli studenti e questi personaggi, che diventeranno anche un evento a cui possono partecipare tutti. Cioè, il concetto è quello della scuola aperta, costante, perenne. Pronto? Sì, sì, sì, ti sento, sì, sì. Senti, per maggiori informazioni e per le iscrizioni, quali sono i riferimenti? Dunque, si può trovare tutto in rete. Abbiamo aperto un sito per ora provvisorio, cioè, rispettando un po' gli slogan a cui ci siamo ispirati per fondare la scuola, gli slogan di Zavattini: un cinema subito, un cinema per tutti, un cinema aperto. contro l'imposizione dell'industria cinematografica. Pertanto velocemente abbiamo aperto un sito dove si possono trovare tutte le informazioni, si può scaricare il bando, si può visionare un promo che attualmente si trova su YouTube, e per cui l'indirizzo del sito è www.scuolazavattini.it e questo è tutto, insomma. Senti, una domanda mi viene, visto che insomma tu fai parte dell'archivio Sì, io faccio parte dell'archivio quasi dalla fondazione. Allora ti chiedo a questo punto lo stato di un particolare tipo di documentario, cioè quello di inchiesta, allo stato attuale, come lo vedi? Ma il documentario di inchiesta allo stato attuale è molto legato ai target televisivi. Sì. E questo, cioè, un pochino ce ne dispiace, in quanto cioè ha un pochino perso la sua autonomia, in quanto rientra, cioè il documentario di inchiesta rientra in un contenitore dal quale poi non ha una sua vita autonoma, spesso finisce in uno scaffale finché non serve una parte d'esso per inserirle in nuovi lavori, prodotti, sì. Rimane lì dimenticato, insomma, ecco. Ecco, quello che bisognerebbe ridare al documentario inchiesta è la sua dignità, insomma, cioè dovrebbe ridiventare un prodotto autonomo che non è legato al tempo. Sì. O al tempo del consumo, ecco, questa forse è la definizione più esatta. Esatto. Bene Guido, allora le informazioni le abbiamo date, e ci risentiamo magari in prossimità degli inizi dell'attività. Ti ringrazio, saluto tutti. Un abbraccio, a presto. A presto. Ciao. Guido Albonetti della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. È con noi Roberto Olla, regista del documentario Nero Petrolio. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, un nero, perché Nero Petrolio sembra proprio un noir. Io ho visto intanto il documentario, ti faccio i miei complimenti, ho visto ieri sera. Ancora, grazie allora. Insomma, nero sta per un noir vero e proprio, perché insomma si parla di Matteotti, si parla di Mattei, si parla di Pasolini e il filo rosso che li accomuna è quello proprio dell'oro nero. Sì, nero in quel senso, nero anche perché è una pista nera che attraversa tutto il Novecento, passando appunto per il fascismo. È forse il più grande noir che abbiamo in Italia. Esatto. Che corre lungo questo petrolio, peraltro nero anche lui. Ci racconti anzi come ha inizio questa indagine, questa inchiesta, e come l'hai strutturata, come hai deciso di strutturarla? Guarda, l'ispirazione viene da alcune pagine di Petrolio di Pasolini, in cui viene riprodotto uno schema, un diagramma che Pasolini stava cominciando a tracciare con tante caselline collegate tra di loro, e lui pensava poi di riempirle ad una in quello che doveva essere il romanzo dei romanzi. Pasolini immaginava più di 2000 pagine per Petrolio, e allora mi sono detto bene, partiamo da qua, vediamo di riempire un po' di queste caselline e proseguire col metodo di Pasolini. Difatti, come avrai notato, e lo diciamo anche a chi ci ascolta, il diagramma viene ripreso in tutto il documentario, cioè queste caselline man mano vengono riempite lungo il corso del Novecento: Mattei, Matteotti, De Mauro, Pasolini. Si potrebbe andare anche oltre, però a un certo punto il documentario deve finire, quindi oltre un'ora non riuscivo ad andare per ragioni ovviamente. Anche perché ci sono anche vittime, chiamiamole così, tra virgolette minori, come De Mauro. Sì, beh, De Mauro sì, è sempre meno, diciamo, una vittima minore, nel senso che sì, esatto. Ormai è evidente che De Mauro era arrivato a scoprire qualcosa, forse le stesse cose che poi ha riscoperto Pasolini, e De Mauro ha pagato un prezzo altissimo per questo. Ricordiamo anche però il collaboratore di Oriana Fallaci, quando Oriana Fallaci interviene subito sul caso Pasolini, pubblicando le prime inchieste fatte sul campo ad Ostia, il suo collaboratore, che era Mauro Volterra, un giornalista freelance, anche se ai tempi non si usava dire freelance, porta avanti le indagini, porta avanti anche quando la Fallaci poi si dedica ad altro, e muore anche Mauro Volterra. Io voglio ricordare alcune delle parole che Volterra ci ha lasciato, quando lui dice il fatto è che dietro il caso Pasolini c'è un'organizzazione talmente forte da riuscire ad intimorire tutto l'ambiente della prostituzione minorile. Chi era questa, chi tirava le fila di questa organizzazione? Chi? Volterra non arriva fino in fondo, lo trovano morto alla fine di una lunga scalinata nella sua casa di campagna, e passa per un suicidio, ma uno non si suicida buttandosi giù da una scalinata. Tutto comincia da Matteotti, perché sotto il fascismo cominciò insomma il rapporto dell'Italia con il petrolio, e tutto ci porta nel Nord America. Raccontaci un po' la vicenda che ha segnato poi anche la fine di Matteotti. Sì, beh, questi sono ovviamente gli studi portati avanti da Mauro Canali, uno dei grandi storici italiani. Matteotti era, diciamo, un oppositore di tipo nuovo al fascismo. Noi abbiamo sempre l'idea un po' del vecchio trombone socialista che si opponeva al fascismo con grandi parole, grandi comizi, ma poi in realtà un'azione politica inefficace. Matteotti è un oppositore diverso. Matteotti va a studiarsi le carte, fa un viaggio all'estero e non poteva andare all'estero, quindi va clandestinamente, va in Gran Bretagna, va in Francia, e scopre le carte di un traffico di petrolio, cioè scopre che quel fascismo che si dichiarava tanto nazionalista si era venduto già il mercato petrolifero italiano alle grandi compagnie americane. Quindi scopre la corruzione alla base del fascismo, e ciò che stava andando a denunciare Matteotti il giorno in cui viene ucciso non era l'ennesima accusa per i crimini del fascismo, era qualcosa di molto concreto che diceva: qui avete venduto l'Italia, cioè attaccava il fascismo in uno dei punti chiave, cioè il suo essere super iper nazionalista. Viene ucciso Matteotti, andiamo a rivederci l'omicidio, con una tecnica gangsteristica da Chicago, cioè qualcosa di inedito in Italia. Lo afferrano per strada caricandolo su una macchina, come se abbiamo visto fare nei film di Al Capone, lo finiscono dentro la macchina e poi tentano di far sparire il cadavere sperando che non si trovi mai più. In questo comportandosi un po' in maniera dilettantesca, perché non riescono ad occultarlo del tutto, cioè tecniche da gangsterismo americano. Questo è l'inizio del drammatico rapporto dell'Italia con l'oro nero, che ha creato poi una dipendenza che l'Italia ha pagato e sta pagando ancora adesso. Dietro c'è tutta una vicenda di grossa corruzione, soprattutto legata ai vertici del fascismo. Grossa, direi enorme. Se voi pensate che l'Italia in quegli anni correva verso una rapidissima industrializzazione, e l'intero mercato italiano petrolifero viene ceduto a quelle che Mattei poi chiamerà le sette sorelle, a una delle sette sorelle. Stiamo parlando non del mercato petrolifero della Tanzania o dell'Algeria, ma di una nazione industrializzata e soprattutto in grandissima crescita. La quantità di denaro che può circolare nel mercato petrolifero è tale da aver fatto dire a suo tempo a Mattei che le sette sorelle avevano bilanci paragonabili a quelli di uno Stato sovrano. Ecco, proprio a proposito di Mattei, la fine di Mattei è quella che ha visto le più macroscopiche opere di depistaggio e cancellazione delle prove. Sì. Il giudice Calia è riuscito 30 anni dopo a ricostruire la fine di Mattei, perché oggi noi sappiamo che Mattei è stato assassinato, che quello non era un incidente, ormai il tribunale l'ha accertato, grazie anche alle nuove tecnologie, ma grazie anche alla pazienza di un magistrato che ha trovato ancora 30 anni dopo decine di testimoni che erano stati intimiditi, impauriti, allontanati a suo tempo. Ricordiamo anche il fatto clamoroso dell'intervista all'unico testimone di allora che diceva di aver visto l'aereo cadere, intervista fatta da un cronista della RAI, conservata nelle telearchivi della RAI, dove però qualcuno una notte evidentemente è riuscito ad entrare e ha tagliato il pezzo di nastro con le frasi più sensibili per l'inchiesta, per cui è sparita per sempre quell'intervista, dopodiché il testimone ha ritrattato e vai avanti con i depistaggi. Oh, tutto, da tutto questo quadro che hai costruito, Roberto, mi sembra che ne esca fuori un paese un po' colonia di potenze, altre potenze internazionali, e che così deve rimanere. Sì, diciamo, se prendiamo il quadro del cosiddetto G8, che ormai non esiste più, ma insomma supponiamo che esista ancora il G8, non si capisce nemmeno perché l'Italia sieda in questo G8, perché sicuramente è la nazione più colonizzata, cioè con l'economia più colonizzata. La principale fonte di energia, che è il petrolio, non è in mano al paese Italia, e quando qualcuno ci prova come Mattei, anche Mattei fa la fine che fa. Mattei, che comincia a conquistare dei mercati esteri proponendo contratti semplicemente, come dire, non neanche vantaggiosi, ma siamo quasi alla pari, trattando quei paesi non da colonie ma da interlocutori normali, e quindi riesce ad entrare in questi giacimenti petroliferi grazie appunto a queste offerte, viene fatto sparire. Perché? Perché dà fastidio, perché non ci deve essere spazio per dei liberi battitori che puntino solo agli interessi della nazione. Mattei, ricordiamoci, è morto povero, non povero nel senso che non avesse da mangiare, non è questo il punto, ma non ha lasciato ricchezze, non ha lasciato beni. E uno nella posizione in cui, una posizione come quella di Mattei, poteva accumulare di tutto, era semplicemente un ex partigiano servitore dello Stato, uomini che l'Italia purtroppo ha perso, non pare che non ne nascano più. Oh, arriviamo a Pasolini, perché nel suo lavoro Petrolio aveva creato anche un collegamento, aveva evidenziato un collegamento tra la politica energetica italiana e la strategia delle attenzioni, quella delle bombe nelle piazze e nei treni. Sì, come ha detto Gianni Borgna, che insomma, saggista che si è occupato spesso di Pasolini capisce bene che il petrolio è il motore dell'economia mondiale, e appresso al petrolio si muovono, come dire, interessi tali da giustificare tra virgolette qualsiasi tipo di violenza pur di difendere questi interessi. Pasolini, secondo i nuovi dati dell'inchiesta, che non si conoscono se non attraverso dei sospiri, perché l'inchiesta è ancora sotto segreto, sotto copertura, ecco, ma Pasolini probabilmente era già arrivato ad avere diverse informazioni dal sud Italia, dalla Sicilia, sulla fine di Mattei, sugli ultimi giorni di Mattei, e chi lo ammazza, lo ammazza in maniera, ecco, Pasolini non è che è stato ucciso, Pasolini è stato massacrato, il suo corpo è stato devastato e lasciato appositamente esposto lì, come un segnale di tipo mafioso, come dire, attenzione, non seguite più la sua strada perché questa è la fine che fate. Non è una violenza fisica, non esiste una violenza normale, ma questa è proprio terrificante, cioè… Sì, beh, come sopra con la macchina, insomma. Sì, basta, cioè, l'immagine che viene in mente è quella dei partigiani massacrati e lasciati appesi con i cartelli, esatto, al collo. È un segnale, sì. Hai detto benissimo, difatti, è un segnale. Un Pasolini che aveva preso coscienza di dove stava andando il paese, ma molto prima di noi. Oggi sono cose che noi accettiamo, che diciamo, ma io ti ricordo che Pasolini diceva 4 decenni fa che il vero fascismo è il potere della società dei consumi che sta distruggendo l'Italia, e la sta distruggendo così rapidamente che quasi non ci rendiamo conto dei cambiamenti che abbiamo attorno. E oggi ne siamo, come dire, quasi coscienti tutti, in qualche modo cerchiamo cerchiamo di reagire, di difenderci. Ma quando Pasolini andava in giro a dire queste cose, era da più che un profeta. Ricordiamoci poi, è quasi incredibile che lui in una pagina di Petrolio praticamente descriva la strage alla stazione di Bologna, solo che la strage doveva venire ancora molti anni dopo. Lui è come se avesse avuto una visione, ti dice: metteranno la bomba a Bologna, la metteranno alla stazione, ci saranno centinaia di morti. Trovarselo scritto in Petrolio, scritto molti anni prima, sì. Lascia veramente pensare a che cosa questo poeta, che ad un tempo era poeta, giornalista, regista, cioè, che piste stava seguendo, che cosa con la sua mente, fin dove era arrivato, quando noi non lo capivamo se non in minima parte. Senti, come allora, intanto nel documentario compaiono anche negli extra, me ne sono viste un paio, interviste integrali ad alcuni dei tuoi referenti. Ecco, la scelta appunto degli interlocutori, come, su cosa l'hai basata? Beh, diciamo che ho seguito intanto chi stava facendo l'inchiesta per la riapertura del caso Pasolini, sì. E quindi l'avvocato Maccioni, la criminologa Ruffini, e quindi mi sono basato molto su di loro. Poi sono andato a cercare il cugino di Pasolini, cioè chi lo conosceva dall'interno, chi stava a casa, quindi il Mannazzone, il sassofonista, quando arrivò la telefonata in cui si diceva Pierpaolo è stato ammazzato, e poteva darmi il racconto della famiglia. Poi un poeta come lui, Gianni D'Elia, che era in grado di raccontarmi il Pasolini poeta. E poi lo storico, Canali. Ecco, ho cercato le persone che più potevano, ovviamente il giudice Calia, quello era fondamentale, perché il giudice Calia ha condotto l'inchiesta che, come dire, è il cardine di tutto Nero Petrolio, di tutto questo filo nero, cioè l'inchiesta che ci dice Mattei è stato ucciso. Non sappiamo ancora dirvi da chi, perché sono passati troppi anni, però è accertato scientificamente che è stato ucciso, che è stato un attentato. Ecco, quindi chi poteva permettermi di ricostruire tutte quelle caselline che Pasolini intendeva collegare all'interno del suo romanzo, un romanzo di cui non abbiamo che le bozze che lui ha scritto. Intendiamoci, bozze che però sono interessantissime, perché non capita mai di vedere i materiali di un romanziere, di un artista, di uno scrittore, prima che vengano pubblicati, quando lui gli ha dato la forma definitiva. In questo modo noi siamo all'interno quasi del processo mentale di Pasolini. Certo, si è fermato a metà strada, ma ci consente di capire come stava lavorando, come stava accumulando i materiali, facendo le sue ricerche, cosa pensava. Ci sono intuizioni folgoranti dentro Petrolio, non so quanto tempo abbiamo però per parlarne, perché come capisci, insomma, è materia che certo mi appassiona non poco. Certo. Roberto, tra mandanti ed esecutori si può parlare di fascismo, fascisti, neofascisti, mafia e corporazioni internazionali? Beh, sicuramente, ovviamente, fascisti, neofascisti, grandi corporazioni, insomma, grandi gruppi industriali, multinazionali. Mafia, attenzione, perché la mafia, io come sai sono anche autore di una storia della mafia, bisogna usare con criterio la parola mafia, nel senso che la mafia, per esempio dei tempi dell'omicidio Mattei, è una mafia, per quella siciliana, è una mafia che non ha ancora la tecnologia che poi la porterà all'assassinio di Falcone, è una mafia ancora più grezza, più pastorale, per cui può essere servita, come dice il giudice Calia, magari per dare qualche informazione, dove si trova l'aereo di Mattei, quale dei due aerei prenderà, ma non per la raffinata tecnologia con cui viene ucciso Mattei, che è una bomba sensibile alla pressione atmosferica, per cui esplode quando l'aereo comincia a scendere di quota. Per i tempi andava pensata questa roba da servizi segreti raffinatissimi. Quindi la mafia in campo non la tirerei in questo caso, sono, può essere servita per delle triangolazioni, certo, questo certo. Sicuramente, come manovalanza, ma qui siamo forse addirittura ad un livello superiore, sopra la cupola mafiosa, questi sono enormi interessi planetari che non devono essere turbati, le sorelle sono sette e sette devono restare. Roberto, il tuo documentario è stato mandato in onda su Speciale TG1 lo scorso anno, recentemente è stato a Voci dell'Inchiesta a Pordenone, ti volevo chiedere che riscontri nel bene e nel male ha avuto, se ci sono hai incontrato anche difficoltà di qualche tipo, ecco, e riscontri invece positivi. Diciamo, difficoltà no, ho potuto agire liberamente, girare anche con relativa libertà, nessuno ha mai neanche alzato nemmeno un mignolo per cercare di fermarmi in qualcosa, anche perché è stata una notevole reazione, ma poi non era anche privo di senso. I riscontri del pubblico sono molto importanti, tanto il documentario è stato visto, adesso non ricordo le cifre esatte, ma mi pare 1.100.000 persone, 1.200.000, una cosa del genere, che per un documentario così impegnato è certo. Importantissimo, e la reazione diretta del pubblico in sala poi è stata notevole, molte domande, molto dibattito, un po' come stiamo facendo io e te adesso, insomma, molta curiosità su come è nata l'opera, sul collegamento diretto col libro Petrolio di Pasolini. C'è su questo tema un'attenzione vivissima, ti basti solo dire che ha valicato i confini nazionali, perché per esempio mi hanno chiamato all'Università di Innsbruck per tenere una relazione su come è stato prodotto Nero Petrolio all'interno dell'università. Quindi, anzi, c'è quasi più interesse nel mondo intellettuale europeo dei paesi, degli altri paesi, rispetto a quello italiano. Forse in Italia dovremmo riscoprire un po' di più Pasolini, è quello che Pasolini ha cercato di dirci. Roberto, per avere ulteriori informazioni in rete hai un sito di riferimento? Sì, allora in rete c'è il mio blog che si chiama Passato Presente. blog.rai.it, lo ripeto per chi ci ascolta, passato presente, blog.rai.it, ma anche solo digitando passato presente con un qualsiasi motore di ricerca ci si arriva. Lì ci sono quattro pagine che ho messo proprio sulla produzione di petrolio, di Nero Petrolio. Chi vuole può discutere con me di tutto, scriva, io rispondo sempre, ovviamente. Bene, un abbraccio, ti ringrazio. Un abbraccio a te, grazie a te. A risentirci presto. Buon lavoro, ciao. Ciao Roberto. Roberto Olla, regista del documentario Nero Petrolio. Bene, avremmo dovuto sentire anche Paolo Maselli, co-regista del documentario Storie di Resistenza Quotidiana, ma non riusciamo a prendere la linea, quindi per cui finiamo qua. L'appuntamento lo rilanciamo per l'ultima puntata prima della pausa agostana, è giovedì 4 agosto. Per maggiori informazioni la scaletta la trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 29 luglio, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in televisione per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana per quanto riguarda invece il cinema, e poi il link per ascoltare la puntata precedente, leggere interviste e recensioni. Buon proseguimento, a giovedì prossimo.